Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, buongiorno intanto. Buongiorno anche a te, buon inizio di settimana a tutti i nostri ascoltatori. Questa volta siamo obbligati, voglio dire, a iniziare così. We can be heroes just for one day. Esatto. La notizia che si è diffusa poco fa è la morte di David Bowie, 69 anni, protagonista della molteplicità del rock, da che era giovanissimo, veramente da quello sperimentale a quello glamour come Absolute Beginners. Cioè, insomma, per chi c'ha nel cuore e le tacche, cioè io, David Bowie è un pezzo fondamentale della storia, dell'interpretazione del sentimento, ma anche di uno stile che non si è mai lasciato immedesimare in una maschera. Questa è la grandezza, secondo me, di David Bowie, al di là del talento musicale. L'annuncio è stato dato su Facebook, sulla pagina ufficiale di David Bowie, cioè è morto ieri. L'annuncio è stato dato in tarda serata, circondato dai suoi familiari, dopo 18 mesi di battaglia contro il cancro, e tra l'altro la richiesta anche di rispettare il silenzio della famiglia. Dobbiamo occuparci di cose più terrene. Se ne vanno, ma lasceranno un'impronta nella storia. Questo non c'è dubbio. Non so di quanti si possa dire della politica italiana, però insomma, David Bowie di sicuro lo lascerà. Oggi hai detto un po' è il santo laico, no? È il santo, il santo del giorno. C'è il santo del giorno, che adesso ricorderemo. Però David Bowie, secondo me, merita insomma un po' la cosa. È un santo laico, è un grande punto di riferimento della storia e del costume, non solo della storia, perché da Ziggy Stardust al Duca Bianco ha fatto più moda lui di tanti nomi della moda. Allora, però, nel calendario liturgico oggi non è lui. Sant'Igino, uno dei primi papi dal 136-140. E tra gli altri che festeggiano l'onomastica, Sant'Aspasio, Santa Onorata e San Senatro, non è San Senato, però in realtà pare che fosse San Senato. Davvero? Ah, e quindi il nome è una corruzione del fatto che questo è molto venerato in Lucania, in particolare in un paese che si chiama Missaniello, e questo San Senatro, famiglia ricca e senatoria, appunto, che sceglie invece la povertà e se ne va in Basilicata, cioè praticamente la fine del mondo. E San Senatro, che molti ancora piangono per la morte del Senato con la riforma costituzionale. San Senatro, esatto. la riforma costituzionale, che è la madre di tutte le battaglie. Il referendum su cui Renzi pensa di rifarsi la sconfitta delle amministrative, come hanno capito tutti. Cioè, la sconfitta delle amministrative viene prima. Fai così, guardi nella sfera di cristallo. No, io dico, e dici... tutti i giornali così la presentano, il fatto che improvvisamente nella comunicazione delle e-news del Presidente del Consiglio il referendum diventa il punto di tutto l'anno, perché forse prima nelle amministrative c'è qualcosa che non funziona. Comunque, io, ecco, se c'è una cosa che mi interrogo sulla politica italiana è sempre questi passi tipo un valzer incerto, no? O dei passi di tango avanti e indietro sulla, per esempio, la questione dell'immigrazione clandestina, il reato di clandestinità. Si è subito entrati nel classico balletto all'italiana del Va modificato? No, non va modificato. Forse lo modificheremo. L'ultima di Renzi, cos'è? Senti, ieri al TG1, lo modificheremo. Il tema dell'immigrazione clandestina, il reato in quanto tale, secondo i magistrati e gli esperti, non serve, non ha senso, anzi crea in problemi e intasa i tribunali. Ma è anche vero che c'è una percezione di insicurezza da parte dei cittadini, per cui questo percorso di cambiamento delle regole lo faremo con calma, tutti insieme, senza fretta. Cioè, ha detto praticamente che toglie voti se uno toglie il reato di clandestinità in questo momento. Io applaudo al pezzo di Luigi Ferrarella oggi sul Corriere della Sera, in cui giustamente demolisce gli argomenti del premier e del suo bellissimo ministro dell'interno Alfano, che ieri in un'intervista ha spiegato anche egli che il reato non regge perché ingolfa le procure, però bisogna tenerlo, appunto, perché altrimenti la gente si spaventerebbe. Alfano dà la spiegazione politica che Renzi non ha dato, dice perché Salvini era pronto a fare il referendum e a batterci nel referendum se l'avessimo abolito. Ma noi non glielo facciamo fare e teniamo il reato anche se il reato fa schifo. Ho capito, ma c'è la disfida al Alfano Salvini che tutti i giorni... A chi fa più pena è difficile attribuire la palma. Ma no, io devo dire... Tenere reati però che servono solo a ingolfare le procure per paura della gente è roba da guarda, colonna oggi, infame. Oggi lo spiega bene Francesco Grignetti sulla Stampa di come non funzionano, si dovrebbe dire, i processi di reati di clandestinità. Intanto quando viene denunciato da una persona l'immigrato regolarmente scompare. Da quel momento parte un processo al giudice di pace con tre sentenze, esatto, con avvocati d'ufficio che costano allo Stato, dunque a tutti noi, con l'immigrato che non si presenta mai, con un giudice di pace che deve leggere il fascicolo, alla fine mettere una sentenza per un qualcosa che di fronte a una persona che non si presenterà mai in tribunale. Insomma, è tutto... E figurati i 5.000 euro che dovrebbe pagare poi l'immigrato. Pagare, questo. Certo. No, ma ecco. Quindi però è chiaro i politici che non difendono funziona. Perché tra loro c'è una gara a chi è più demagogo, da chi vuole fare il referendum se venisse ritirato, a chi lo tiene pur dicendo che è un reato che non fa altro che ingolfare, esatto, la giustizia. Però lo tengo così non do l'arma del referendum al mio poi rivale politico. Poi dicono perché vincono i 5 Stelle, capisci? Si interrogano sul fatto. Cioè i 5 Stelle non devono fare niente. Ma basta che stiano fermi. Oddio, devono evitare, però ne parleremo anche più avanti, devono evitare quello che sta succedendo a Quarto forse. Ma è un materiale che affronteremo. Ma tu hai visto che cambiamo... Scusate, la morte di David Bowie mi emoziona davvero. Ministro delle Infrastrutture che ha dato l'ok alle multe a strascico sul Corriere della Sera. Ma l'hai vista questa roba tragica? Ma io l'ho data come articolo che mi ha fatto più arrabbiare, ma in realtà io sono d'accordo. Ho capito, però qua bisogna che ci mettiamo d'accordo. No, cioè... ma ragazzi, ma tu hai mai visto in seconda fila in corso Buenos Aires e la gente che tira giù di tutto? Ma figurati, io sono contro le multe in seconda fila, però a quel punto bisogna multare le multe in seconda fila. Sì, sono contro il parcheggio in seconda fila, scusate. Però non è che a quel punto per far soldi noi a questo punto ci abbiamo i droni della polizia municipale. Ma non male questa idea dei droni. Mio, utilizzate la tecnologia, avete sentito Oscar Giannino vi suggerisce l'utilizzo dei... anche poco, tra l'altro. Infatti l'utilizzo dei droni. Cioè hanno deciso che queste multe a strascico che fanno lo street control, cioè passa la macchina e giù. Ma che street? Lo strip control. Fanno lo spogliarello dei conti dei comuni che sono al casino perché spendono soldi. Vedi Roma in quella maniera indegna in cui la spendono. L'hai vista l'intervista? Tronca. L'ho vista, certo. Tronca ha fatto un'intervista oggi al Corriere della Sera. Per la verità è tutta un... ci vuole senso civico. Ma Napoleone, ho riavviato la macchina. Tra un po' parla come De Luca. Ho tolto le assi incardinate. Ma è una cosa impossibile. Ho trovato la macchina amministrativa cementificata, marmorizzata, dice dentro. Però non dice che cosa ha fatto, cioè non si capisce che cosa ha fatto di concreto. Sì, appunto, secondo me non lo so, cari romani, telefonateci. Già mi preoccupo se parla così. E io tifo Tronca, però insomma tentiamo di non farne un Napoleone di Notting Hill. No, ma infatti io vorrei sapere 800 24 00 24, diteci, chiamateci da Roma e diteci una cosa che avete notato di positivo con Tronca. È arrivato Tronca e il tombino di via Tal dei Tani finalmente ora è a posto. Non emette più topi. Che di solito faceva di solito così. Non lo so. Comunque no, i comuni secondo me, adesso al di là dei comuni far soldi, tutto ciò che serve per contrastare multe, sosta selvaggia secondo me come è giusto. Vedi che il lapsus ti è scappato. Tutto ciò che serve a contrastare multe selvagge. Ma vedi, multe selvagge non vanno bene. Non vanno bene le soste selvagge. Però la multa selvaggia è una specie di guerra del Vietnam che non fa prigionieri. È un principio di tolleranza. Significa semplicemente, da parte dello Stato fino alla sua più piccola amministrazione, che non bisogna incarognire. No, non bisogna. Bisogna fare le multe a chi le merita. Non ti pesco su questo e vado fino a vedere se tradisci tua moglie. Ma infatti, no, vabbè, ma lì, cioè, vogliono fare le multe a chi le merita e le fanno con i mezzi della tecnologia. I droni, guarda che sono una buona idea che hai suggerito a qualche sindaco. Sicuramente li vedremo. Me, li vedremo droni, in atto tra pochissimo. Non i ho droni per le multe, cara ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Capito, però non dimenticarti che vivi in un paese in cui la Procura di Lecce, come per fortuna Paolo Mieli oggi fa questo editoriale in cui richiama l'attenzione di tutti, perché ce ne siamo occupati solo noi quattro gatti che siamo contro l'eccesso dei magistrati. La Procura di Lecce, che si inventa questa storia della colonna infame, degna veramente del 600, di un'indagine in cui dice che sono gli scienziati che hanno diffuso la xylella, dopo aver detto che non bisogna espiantare, tra l'altro, gli ulivi pugliesi perché la xylella non è colpevole del disseccamento delle piante. Guarda che è un atto, è un atto di magistratura degna del 1600, quello che sta avvenendo oggi. Paolo Mieli, quindi, in questo sul, paese, un po' di sani limiti sull'evitare che lo Stato si dia ragione da solo, bisogna sempre averli. Comunque, tu hai parlato di multe di comuni che hanno difficoltà nelle proprie adesso, casse. Infatti, vogliamo salutare il sindaco di Corsico, Filippo Errante. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, radioascoltatori. Perché a Corsico cosa è successo? Una cosa, per la verità, non nuova, era già successa in passato, ma lei in pratica ha annunciato, poi ha fatto un po' marcia indietro, ci faccia capire adesso com'è la situazione. Guardi. No, intanto lo spieghiamo agli ascoltatori. Sì, cioè, lei ha detto: chi non paga la mensa scolastica, i genitori che non pagano la mensa scolastica, non avranno il pranzo servito ai figli nelle scuole di Corsico a partire da oggi. È così? Assolutamente sì, conferma. E così, perché è arrivata questa decisione? Io personalmente applaudo. E Giannino è d'accordo? Sì, io invece personalmente applaudo, signor sindaco, a questa posizione. Grazie. Il semplice fatto. Lo so che è stato massacrato. Che le hanno detto di tutti i colori, invece, sindaco? Me ne hanno dette tutti i colori, aguzzino, fascista, me ne hanno dette tutti i colori. Il vero problema è che il mio comune si trova in una situazione debitoria di 1.227.000 euro, che si è accumulato dal 2009 al 2015, al 30 aprile del 2015. Io faccio il sindaco dal 15 di giugno del 2015. Sì. E quanto ha trovato di morosi, diciamo? Quanto è l'ammanco sulle mense, soprattutto? Allora, l'ammanco complessivamente, diciamo, sono 1.227.000 euro, che comprendono circa 500 bambini, non nuclei familiari, 500 bambini. Tenga conto che dalla mia azione, che poi tra le altre cose, al di là di quelli che sono stati i giudizi, ovviamente, di tanti bonisti o personaggi tali, i quali poi, fatto salvo che chiacchierare non danno soluzione, perché di questo si tratta, è un paese nostro un po' strano, no? Sì. Si attacca i sindaci di frontiera, però non si danno soluzioni. Il dato è stato che, ovviamente, in maniera molto civile, nel mese di settembre è stata inviata una lettera a tutti i soggetti che si trovano in situazione debitoria col comune. Sono stati invitati a fare un piano di rientro, per cui ripartito con un 35% da versare entro settembre, un 35% entro ottobre, un 30% entro il mese di novembre. E hanno pagato? Molte famiglie sono rientrate, per cui abbiamo avuto versamenti da 5.800 euro a 700, a 300, 400 euro. Succede che poi, finito l'ultimatum del 30 di novembre, abbiamo fatto la rivisitazione complessiva contabile e abbiamo incassato circa un 140.000 euro. Sì, ne rimangono anche molti. Sono pochi, tanti, però voglio dire, c'è stata una risposta. No, però aspetti, sindaco, cioè, allora, Giannino dice è d'accordo con lei. Io le mie perplessità, cioè, se c'è un ammanco nel comune, è giusto che un sindaco debba trovare tutti i modi per recuperarle. Le uniche perplessità e come si diceva, c'è un ammanco, si sospende un servizio. In questo caso il servizio coinvolge dei bambini che oggi andranno a scuola nelle scuole di Corsico e che rischieranno di trovarsi cos'è, un panino, cos'è, come... No, beh, il panino se lo portano da casa, il sindaco ecco, non glielo prepara, su questo non c'è un problema. Ecco, metta che il genitore si dimentica non solo di pagare la rata ma anche di fargli il panino, cioè se c'è il bambino di 7 anni che si ritrova senza mangiare, chi glielo spiega questo bambino? Ma guardi, io ho fatto altri studi, non ho fatto studi di psicologia, pedagogia o quant'altro, io questo lavoro lo lascio fare agli altri, la scuola ha una sua piena autonomia, le posso assicurare che io da bambino andavo col mio cestino e mia mamma mi preparava dei succolenti panini e sono cresciuto sano e bello. Sono passati tempi. No, chiaro, però sindaco, tenga conto che un buon 40% delle scuole italiane non hanno il servizio della refezione scolare. Ecco, diciamo anche queste cose e tanti altri paesi non danno neanche il servizio della refezione scolare. Ma mi faccia capire, ma lei continua su questo? Perché qualcuno parlava di marcia indietro sua, invece continua. No, guardi, io sono una persona determinata, mi assumo le responsabilità delle azioni che compio, l'ho sempre fatto nella mia vita e lo faccio anche in questa occasione. Qua il tema è questo, c'è una situazione che effettivamente dal punto di vista contabile è pesante. Io ho la necessità, rispetto a quello che è il mio programma, di perseguire degli obiettivi, vuol dire dare risorse agli anziani, ai disabili, alle famiglie bisognose. I soggetti che per loro scelta non pagano non pagano, per quanto mi riguarda, non avranno nessun aiuto. Aggiungiamo anche per far capire, perché sennò sembra che il sindaco sia improvvisamente uno che si alza e dice: io adesso non ti faccio mangiare tuo figlio. Chi nell'ordinamento italiano è nelle condizioni reddituali di rientrare per ISEE, cioè per criteri oggettivi, nella sfera di avere diritto di assistenza sociale, integrazione, ce l'avrà, certo. Ce l'ha. Quindi qui stiamo parlando di soggetti che non sono in queste condizioni e che sono morosi perché ritengono che tanto la scuola di Stato gliela paga comunque. Questo è il criterio. Le dico questo. Questa situazione, e tra le altre cose, poi vi do l'ultimo dato. Da 500 ormai siamo passati a 102 bambini, per cui il numero si è notevolmente ridotto. E nello stesso tempo è aumentata anche la cifra, per cui abbiamo fatto un programma di rateizzazione che complessivamente già porta 233.000 euro nelle casse del comune, che ovviamente sono risorse, linfa, che si può utilizzare proprio per situazioni dove realmente ci sono situazioni di disagio sociale. Di questi nominativi non sono soggetti attenzionati ai servizi sociali. Direttamente me ne sono occupato proprio con delle famiglie. Sono persone che hanno i soldi, volendo semplicemente... Ma guardi, quella roba lì poi utilizzeremo tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Il fatto sta che queste persone, già molte di loro, avevano ricevuto anche comunicazione da Equitalia e quant'altro, e in maniera scientifica non pagano. Tanto Equitalia recupera il 10% su queste tematiche. Sì, tanto lei dice: pensano qualcuno un pasto al mio bambino. La cosa più rapida è quella: sospendendo il pasto non aumento la condizione debitoria del mio ente. Ovviamente vuol dire per me mediamente un recupero di 13.000 euro mensili. È il fatto che il bambino rimanga, dice, se la vedrà le maestre a spiegargli il perché. Cosa le devo dire? Cioè, qualcuno mi desse qualche soluzione, qualche possibilità. Io i bambini, per me, guai chi me li tocca, però per esempio i bambini disabili, le famiglie bisognose e ci deve pagare quei servizi, chiaro. Emergenze maggiori. Certo. È un servizio a domanda individuale, non obbligatorio, e non mi viene detto che rientra nel piano di studio. Va bene, sindaco, intanto registriamo il fatto che lei... Se i sindaci fanno così, non si arriva poi a tronca, capisci? Invece i sindaci non fanno così, si arriva ai salvadebiti di Roma. Questa è la differenza. Il problema è che evidentemente quando la legalità uno tenta di praticarla con i fatti, no, con le chiacchiere, in questo paese magari rischia di essere tacciato come fascista, razzista, aguzzino. No, questo no. Sindaco, noi la ringraziamo. Vuol dire il partito? Non gli abbiamo chiesto di che partito è lei? No, guardi, io lista civica. La mia è una lista civica Corsico Vivere, ovviamente appoggiato da tutto il centrodestra. Centrodestra. dal 46 a oggi ha sempre governato il centro-sinistra e per la prima volta corso al centro-destra. La mia storia è tutta socialista, per cui rivendico la mia appartenenza ideologica. La ringraziamo, sindaco di Corsico, Filippo Errante. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. A lei, il principio è: lo Stato in Italia non dà da mangiare gratis. E questo principio in Italia è rivoluzionario. Beh, infatti, no, io ammiro senza dubbio il fatto che, nonostante si sia detto forse recede, invece no, dice no, io ho detto una cosa, la faccio. E perché la gente applaude Checco Zalone, che deride lo stesso concetto, se poi si fa in pratica però no, ma tra l'altro se vedo i messaggi la maggior parte sono di grande solidarietà nei confronti del sindaco, a dire fa bene. Comunque sono belli anche i messaggi su Tronca, quelli dicono che tutta la cosa che è cambiata è che a Roma, dice un ascoltatore, le buche sono diventate molto più monumentali e istituzionali. Sono Tronca. Vabbè, dai, si scherza, prefetto, scherza. Si scherza quando per vuole carità, per carità. Qui è nostro ospite, intanto andiamo in pubblicità, riprendiamo tra qualche minuto. Eccoci qua, caro Oscar. Eccoci, allora, qui tornati. Insomma, questo sindaco di Corsico ti ispira? Ma è un sano principio. I genitori forse potranno più utilmente pensare che il bambino va nutrito, no? Altrimenti cosa facciamo? Ci trasferiamo tutti quanti? Adesso c'è un bambino piccolo. Se passa il principio opposto, vuol dire che lo mando lì a Corsico, tanto lo fanno mangiare gratis. E va bene, va bene. Insomma, ma devo dire mangia che molto scuola... mio figlio, quindi non so se conviene al contribuente. Davvero. Però potresti trasferirti effettivamente a Corsica e mandarlo alla scuola elementare. Non so, se passa questo principio, io vedo che da quanto consuma, se me lo sfamano gratis, inizio a concepirlo come un appoggio fondamentale al mio bilancio familiare, perché è un divoratore. Non so come fai tu, ci sei passato prima di me. Ma io ne ho due. Mi è una cavalletta. Ma non vivente. Non mangiano praticamente vedi? Nulla. Ma sono abituati al culto milanista. Questo è il punto. Io ancora me ne guardo, no, ma fai. Non allargare le braccia. No, ti ringrazio, sono abituato a soffrire da 3 anni, ti ringrazio comunque. Guardi, io sono torinista, credevano di essere partiti bene quest'anno. E quindi tu soffrirai ancora perché vincerà la Juve anche quest'anno. Vabbè, caro Oscar, vogliamo parlare un po' di quello che sta succedendo a Quarto invece politicamente. Quarto della Campania. Perché lì c'è uno scontro ormai a calor bianco tra il movimento, con Beppe Grillo che sul blog ha detto il sindaco Rosa Capuozzo deve lasciare, deve dimettersi. Dopo aver detto però 48 ore prima che i voti ricevuti dal candidato sospetto di ricattare la presidenza non erano decisivi. Non grande coerenza tra la prima e la seconda grillata. A mio modo di vedere è la prima volta in cui il Movimento 5 Stelle si trova a fronteggiare una qualcosa di politicamente davvero delicato, davvero complicato. E come se ne esce lo vogliamo chiedere ad Alfonso Bonafede, che è vicepresidente della Commissione Giustizia del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e bentrovato, Bonafede. Buongiorno a tutti. Allora, intanto come se ne esce? Cioè, ci faccia capire, per il Movimento 5 Stelle la vicenda è chiusa, cioè Rosa Capuozzo deve dimettersi e quindi si deve sciogliere il Consiglio Comunale? Su questo ieri pomeriggio la nostra dichiarazione è stata chiarissima. Il Movimento 5 Stelle porta avanti una battaglia per la legalità che non può avere incertezze, che non può avere zone d'ombra. Noi abbiamo cominciato in Italia una vera e propria rivoluzione, che non è solo una rivoluzione di legalità, ma è proprio anche culturale. Aspetti. Sì. La prima rivoluzione è la chiarezza. La risposta è sì. Sì, quindi si deve dimettere. Certamente, ma ieri l'abbiamo chiarito. Cioè, la nostra dichiarazione diceva, allora a questo punto lo ribadisco, diceva che poiché dobbiamo garantire questa battaglia per la legalità, per l'onestà, eccetera, noi chiediamo con fermezza a Rosa Capuozzo di dimettersi e di far tornare le elezioni Quarto. Vorrei spiegare il motivo e vorrei anche specificare che non c'è nessuna contraddittorietà rispetto a quanto fino a 24 ore prima Grillo diceva che i voti del consigliere che poi è stato dimesso, è stato cacciato, non erano decisivi. Non sono stati determinati. Questa è una verità storica. Il punto è che quando è venuto fuori il caso di Quarto, noi abbiamo sentito l'esigenza di sottolineare senza se e senza ma che dai fatti risultava il sindaco pulito, il Movimento 5 Stelle parte lesa e che il nostro programma aveva già dimostrato di avere gli anticorpi necessari per espellere le persone che si sono dimostrate contrarie in questo caso. E allora, perché si deve dimettere? Contrario ai principi del Movimento 5 Stelle, perché ricordiamo, il consigliere De Robbio era già stato... Ma questo sì, ma infatti... Prima ancora che venisse... Ma stiamo parlando del sindaco adesso. Esatto, sì, perché, adesso perché siamo... quindi il sindaco si dovrebbe dimettere? Perfetto, se... perché c'è un'ombra troppo grande, che è quella per cui ci sarebbero stati dei voti della camorra che sono stati date a un consigliere che comunque è stato eletto nel Movimento 5 Stelle, e i voti della camorra, per quanto in questo caso, e lo ribadisco, non sono stati determinanti, sono comunque irricevibili. Noi, vede, io sono vicepresidente della Commissione Giustizia, quasi ogni giorno viene fuori il discorso alla Camera del voto di scambio politico-mafioso e della necessità di fronteggiarlo senza avere incertezze. E noi questo messaggio ai cittadini lo stiamo dando in maniera chiara. Però io, onorevole Bonafede, un pizzico di contraddizione la vedo, cioè se stando proprio al fare uno più uno, se uno dice non sono stati determinanti quei voti eventuali della camorra per vincere, nonostante ciò qualsiasi voto della camorra è ricevibile, quindi dobbiamo dimetterci, cioè... C'è un passaggio... Anche perché d'ora in poi la camorra renderà noto con questo criterio, se passa, di votare tutti più scomodi, e a quel punto automaticamente non potranno fare i sindaci. Cioè è un terreno molto scivoloso. Beh, adesso bisogna vedere se gli altri partiti seguono questa linea. Ecco, il punto... Questo sono d'accordo, infatti... però è scivoloso, perché un conto è dire, i voti... Intanto noi abbiamo una linea, una coerenza, rispondiamo agli elettori, facciamo le cose giuste, altrimenti sulla base del sospetto capisco la base che dice, come hai appena detto tu Alessandro, noi lo facciamo anche sulla base del sospetto, gli altri partiti no. Non lo fanno mai, neanche sulla base di prove magari, però è comunque un terreno molto scivoloso, cioè è un precedente però molto forte. Voglio specificare che qui non c'è un semplice sospetto che l'amministrazione si è comportata male, perché lì non c'è il sospetto, cioè da parte nostra noi valutando i fatti vediamo che l'amministrazione si è comportata correttamente e onestamente, questo lo voglio ribadire, però c'è una prova, ci sono indizi molto gravi, ecco, diciamo questo, rispetto al fatto che ci sia stato un sostegno da parte della camorra ad uno dei nostri consiglieri che è stato eletto al Movimento 5 Stelle. Non parliamo di irregolarità burocratiche, qui parliamo della camorra che in un comune come Quarto decide comunque di provare ad infiltrarsi per sostenere un consigliere che comunque è stato già buttato fuori. Bonafede, sì, ma insisto su questo, se tanto mi dà tanto, mettiamo che si scioglie il comune e si va nuovamente alle elezioni, non dovreste neanche presentarvi, perché i camorristi, alcuni ci saranno a Quarto e voteranno. A questo punto lei mi sta dicendo che il sindaco ha fatto tutto per bene, però si deve dimettere sulla base di ombre. Allora non dovete candidarvi a Quarto, perché ci saranno sempre delle possibilità che qualcuno della camorra voti uno di voi. Sì, stiamo parlando di un voto dato, di voti dati ai consiglieri rispetto ai quali confermo noi non abbiamo incertezze, perché ribadisco, una volta presa posizione sul fatto che l'amministrazione è pulita, noi stiamo portando avanti una battaglia per la legalità che è ambiziosa, che spesso chiede ai partiti di muoversi prima ancora di sentenze, altrimenti vede entriamo nel addirittura ben prima di sentenze. Qui lei dice è pulita l'amministrazione, ma deve dimettersi, cioè è lì il punto. È pulita l'azione dell'amministrazione. Ci sono gravi indizi sul fatto che siano state pulite, le elezioni. Le elezioni, e questi sono due piani importanti. Lo so, e però mantenere la poltrona a la pulizia delle elezioni a comuni ripetutamente sciolti è un po' difficile. Cioè si costruisce con amministrazioni che di fronte ai rischi sappiano avere la forza, perché altrimenti verrete sempre travolti da un Saviano di turno. Io lo dico mica per criticare, travolti da un Saviano di turno, perché la gara a chi dice non basta mai essere più puri della purezza cristallina doc di OCG, porta una roba che farà godere magari gli altri che sono più ricchi, meno rigidi gli altri. Ecco, questo è quello che temo, mi chiedo cosa ne pensa lei. Che non è una battaglia fine a se stessa per la purezza. Noi ieri abbiamo mandato un messaggio molto importante ai cittadini onesti, dicendo potete fidarvi del Movimento 5 Stelle, perché noi portiamo avanti, perché mantenere la poltrona a quarto sarebbe stato contrario allo spirito politico del Movimento 5 Stelle, che è nuovo ed è unico in Italia. E noi agli onesti vogliamo dare un messaggio chiaro, vogliamo dare un messaggio altrettanto chiaro ai disonesti. Cioè noi con quel gesto mandiamo un messaggio a tutti i mafiosi e a tutti i criminali d'Italia, che non pensino mai, nemmeno lontanamente, di potersi infiltrare nel Movimento 5 Stelle e di poter cambiare il DNA del Movimento 5 Stelle, che è quello di una battaglia per la legalità che non ha precedenti in Italia. E voglio dire anche un'altra cosa, gli altri facciano lo stesso, perché vede, se i partiti avessero dimostrato in tante occasioni di saper fare un passo indietro di fronte a fatti di criminalità importanti che inquinavano anche non l'azione del singolo, ma comunque ciò che c'era a monte, prendiamo il caso di Marino, su cui noi abbiamo sempre detto che il sindaco Marino non era indagato, non c'erano prove di un suo coinvolgimento nei fatti che venivano contestati dalle procure, ma ciò nonostante doveva dimettersi perché c'era un fatto grave che aveva coinvolto la società. Dice noi lo facciamo. Senta, c'è un punto politico importante, ma se il sindaco non si dimette che succede? Perché pare che non voglia dimettersi, è sulle barricate, allora, cioè c'è anche il rischio espulsione a questo punto dal movimento? C'è il rischio evidente che venga tolto il simbolo alla lista. Del resto, alla manifestazione chiesta da Rosa Capuozzo già si vede nel manifesto che non c'è il simbolo del... Vabbè, ma è chiaro, cioè il movimento lo chiediamo proprio come procedure, cioè il movimento ha chiesto di dimettersi, se il sindaco non adempierà questa richiesta verrà tolto il simbolo, immagino, sarà espulsa, quello che viene definita espulsione dal movimento, no? Sarà ritirato il simbolo dal sindaco, questo sì, dalla giunta, eventualmente se questa giunta dovesse rimanere. Ma ribadisco, noi abbiamo chiesto un gesto che è stato definito come un gesto da noi stessi sul blog ieri di Grillo, come un gesto di grande coraggio, di grande determinazione, perché chiaramente la strada dell'onestà ha un prezzo, e quel prezzo da pagare è quello di essere al di sopra ogni sospetto. Posso chiedere rapidamente un giudizio su il confronto chiesto Grillo dal presidente della Regione Campania De Luca, che deve rispondere adesso in corte d'appello di abuso d'ufficio e peculato, abuso d'ufficio e peculato, e che ha sfidato a un confronto pubblico dopo aver detto che deve essere sincero, crede davvero di aver fatto miracoli. De Luca parla di se stesso, anzi confesso di essere traumatizzato da me stesso, ha detto De Luca. Come rispondete voi a questa richiesta di sfida sulla trasparenza? Ma io non metto in dubbio che De Luca creda di aver fatto dei miracoli, proprio per questo sono sicuro che non dovrebbe ricoprire il ruolo che attualmente ricopre. La vicenda di De Luca è uno scandalo che non doveva essere accettato dal Partito Democratico, che non potrebbe esistere in un paese civile in cui viene emanata una legge che stabilisce che una persona non può ricoprire un incarico se è condannato. Va bene, mi pare che la sua risposta sia chiara, ecco, quindi. Perfetto. E nonostante questo, ma guardi, io le dico una cosa, è emerso che ci sono 83 indagati solo nel PD, quest'anno nel PD, nelle file del Partito Democratico, 83 va soltanto bene. Quest'anno. Queste sono andiamo alle dimissioni del sindaco, insomma, questo è quello che abbiamo capito. Però dovrà convenire con me sul fatto che a un certo punto sentire le voci convengo. Di esponenti del Partito Democratico che continuavano a scagliare non un gregge di puri la vicenda di quarto, in cui c'era un ex consigliere del non Movimento 5 Stelle che era stato fatto arrabbiare, pesante, mi ha fatto dire da che pulpito indagati, e esatto, che hanno dei macigni sopra le spalle pesantissimi, come quello di aver consegnato la capitale italiana alla mafia. Va bene, stop, che sennò arriviamo poi. No, fede, perché sennò... Siamo d'accordo, ma i minuti passano. Il Partito Democratico coinvolti nei fatti. No, ma è chiaro, ma la sua posizione è chiarissima. Però facciamo così, vedremo gli sviluppi, perché tanto questa vicenda di quarto credo che non abbia ancora scritto la parola fine. La ringraziamo, Alfonso Bonafede, deputato Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Giustizia. Allora, ci sono degli ascoltatori, la vicenda di Corsico ha diviso gli italiani. Raffaella ci chiama da Milano, buongiorno Raffaella, che ci vuole dire? Buongiorno, grazie per avermi richiamato. mi sentite bene? Sì, la vada, radio, vada, vada, vada, no. Vada, vada. Sì, perfetto. La radio, allora, io non sono d'accordo molto col sindaco, o meglio, secondo me bisogna fare un po' una distinzione. E questo, e parlo per esperienza, perché io ho la fortuna di avere un figlio iscritto a una scuola elementare molto buona a Milano. Noi siamo in una zona, viviamo una zona normale, sì, una zona buona, zona città studi, e ci sono delle realtà, vi assicuro, di bambini extracomunitari. Spieghiamo, Raffaella, il sindaco è il sindaco di Corsica, che ho avuto prima, che non dà più, sì, però, il servizio mensa, appunto, ai bambini, ho i cui genitori, ecco, non pagano. No, allora, io quello che voglio dire, quello che voglio dire è che io conosco delle realtà di genitori che non possono, non hanno pagato la retta, non riescono a pagarla e che sono in condizioni molto molto difficili. Io vi garantisco, però, su quello, per scusi, avere... Raffaella, quello, come diceva Oscar Giannino, fanno parte di, cioè dovrebbero fare una richiesta al comune tramite l'ISEE e sì, accedere, allora, ai servizi sociali. Presente. Sì, allora io ho iniziato a chiamare il servizio sociale, perché sto seguendo in modo volontario alcune famiglie, a ottobre non di quest'anno. Ok. Dopo 4 mesi ho fatto 80 telefonate, le faccio, siccome faccio tutti i giorni un'ora di macchina la mattina per andare in ufficio, ascolto voi e poi mi porto anche le telefonate che devo fare, tra cui gli assistenti sociali. Sono riuscita a parlare lunedì scorso. Dopo quindi mesi? Dopo, credo, dopo, no, da ottobre, quanti mesi sono? Dopo 3 mesi di telefonate. Ho l'appuntamento per questa signora a metà. Insomma, del lei anno. Dice ci sono situazioni di difficoltà e non sempre i servizi sociali riescono a rispondere in maniera veloce. Caro Oscar, io non so se ci sta anche Massimo da Milano. Massimo, grazie Raffaella. Massimo da Milano, è breve però, per cortesia. Buongiorno, velocissimo. Grazie. Una riflessione molto... potrebbe sembrare surreale, ma sono d'accordo con il sindaco di Corsico, se non altro perché difende anche una categoria di un esercito di famiglie e di persone normalissime che non hanno bambini e che spesso si ritrovano ostaggi di chi ha deciso di avere dei bambini in maniera spesso... Beh, questa, Massimo, è una... in maniera irresponsabile. No, incredibile, Massimo, viviamo in un paese in cui oramai decide di avere un figlio è un lusso, esatto, sulle spalle degli devi altri. Devi sapere se potrai permetterti la mensa scolastica, se no sei un irresponsabile. Se però un figlio, la mia risposta per vita... Raffaele, è vero che lo Stato è pieno di inefficienze, non per questo però lo Stato deve dare gratis. Chiudiamo ancora con David Bowie, perché ricordiamo la notizia di questa mattina: è morto. Un grandissimo buco si apre nella coscienza civile, non solo musicale, di noi tutti. A domani. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan.